Lapsi, un termine che viene dal verbo latino labor, scivolare, cadere, part, pass, lapsus. Un termine che, molto probabilmente, non tutti conoscono, ma la cui nascita è dovuta a eventi storici, la drammatica traccia dei quali, ancora oggi, è ben marcata nell'espressione del cattolicesimo romano. Durante il Principato di Decio, 249-251, si verificarono degli episodi di persecuzione contro i cristiani. Gli storici hanno riconosciuto in Decio un conservatore che, anche in materia di religione, si manifestò fedele agli ideali del Senato romano. L'imperatore, con un editto, chiamò tutti gli abitanti dell'impero a effettuare suppliche agli dei protettori e a dichiarare di aver sempre offerto loro sacrifici. Il tutto veniva certificato con un libellus, cioè un certificato rilasciato da un'apposita commissione. Molto probabilmente l'editto non era una legge anticristiana, bensì l'imposizione di un obbligo generale di sacrificio, la cui esecuzione poteva comportare la disobbedienza da parte dei cristiani e, pertanto soltanto indirettamente, la loro possibilità di punizione. La reazione dei cristiani a questa tempesta che divampò, nel suo massimo, tra la fine del 249 e l'autunno del 250, fu varia. Da una parte si ebbero martiri e confessori, dall'altra anche numerosi apostati dichiarati, chiamati appunto lapsi e turificati. I primi erano coloro che avevano rinnegato la fede, i secondi venivano così definiti poiché avevano bruciato incenso. Vi erano poi i ribellatici quali, corrompendo funzionari con denaro, si erano salvati la pelle acquistando il libello, ma senza avere sacrificato. Al termine della bufera, nelle comunità cristiane si porse il problema relativo all'atteggiamento da adottare nei confronti di coloro che non avevano resistito alla prova ed erano parecchi, e che, ora, bussavano alla porta della comunità per essere riammessi. Costoro andavano riaccolti in piena comunione, oppure il loro peccato era da considerarsi imperdonabile. Altrimenti, quale tipo di penitenza sarebbe stata necessaria? Per Cipriano di Cartagine e la collegialità dei vescovi dell'Africa, essa doveva essere vita natural durante. Ma al di sopra di questo pur grave problema, è da segnalare la tensione conflittuale che ebbe a determinarsi tra i conduttori di chiese, cioè i vescovi, e coloro che avevano subito eroicamente il martirio, la cui personalità acquisiva, ora, agli occhi dei credenti, carisma e autorevolezza ben superiore a quelli dei vescovi stessi. Questi ultimi, infatti, pur essendo le guide ufficiali e riconosciute dalle comunità, in molti casi si erano messi in salvo nascondendosi. Al contrario, i martiri ancora in vita erano venerati come eroici testimoni, che erano stati uniti al Cristo in un battesimo di sofferenza e apparivano perciò più autorevoli in quanto pieni di spirito. Nacque così il conflitto religioso tra autorità e carisma. I martiri si dimostravano più indulgenti degli ufficiali ecclesiastici nel dichiarare il perdono a chi aveva ceduto nella persecuzione, mentre i vescovi esigevano dai lapsi un vero pentimento, con un periodo di prova e penitenza nel quale compiere atti cosiddetti meritori. Perciò la persecuzione di Decio, una volta sopita, fece emergere nel seno di molte importanti comunità cristiane due anime, una rigorista, che concepiva la Chiesa come un circoscritto sodalizio di credenti alieni dal peccato, l'altra invece che potremmo definire inclusiva, la quale ammetteva una disciplina di riammissione per chi aveva sbagliato e più in generale concepiva la Chiesa come un luogo di accoglienza. La prima tendenza, cioè quella rigorista, conobbe forme di sviluppo settario e gradualmente si avviò alla scomparsa. La seconda si evolse nelle forme di una ecclesiologia cattolica. Fatti storici questi che potrebbero essere assorbiti in modo innocuo dalla storia della Chiesa, ma una delle tante eredità della persecuzione di Decio fu la convinzione che, da allora in poi, andò a diffondersi fino a radicarsi, e in base alla quale il martire, a motivo dell'eroismo mostrato, aveva acquisito al cospetto di Dio una sorta di merito. che avrebbe potuto applicare a beneficio di credenti più fragili nella fede o addirittura apostati, esercitando così un ministero di intercessione. Un fenomeno storico che diede avvio a tanti fatali errori che ebbero il potere di inquinare per sempre il pensiero cristiano. Solo un secolo dopo si iniziò a venerare la memoria del martire nel luogo dove egli aveva subito la morte oppure dove riposavano le sue spoglie mortali. I monaci furono instancabili promotori di questa pietà, anche perché erano ritenuti i degni successori dei martiri. Per i cristiani divenne un privilegio essere sepolti presso il corpo del santo martire, toccarne e possederne brandelli di vestito, o anche ciò che era rimasto delle sue spoglie. Nacque così il culto dei santi e delle reliquie, attestato già nel primo quinto secolo, che tanta parte dovrà avere nella spiritualità del cattolicesimo medioevale, un culto completamente estraneo all'orizzonte spirituale del cristianesimo più antico. Questi lievi e fatali mutamenti nel carattere cultuale, apparentemente innocui, introducono un'errata trasformazione concettuale della grazia. La grazia ora, a livello popolare, è concepita non più secondo il pensiero cristiano, come il favore immeritato di Dio verso il peccatore, un favore che ne determina la giustificazione solo per fede, bensì un benevolo intervento di Dio o dei santi volto a mutare il corso degli eventi a favore di chi ne sperimenta il beneficio. Molto probabilmente l'eredità peggiore lasciata dalla persecuzione di Decio è che andò confermandosi il ruolo del vescovo come mediatore del perdono di Dio e iniziò a definirsi un sistema di corrispondenza tra le penitenze e la riconciliazione con la Chiesa. Questo atteggiamento dava sempre più potere ai vescovi cattolici, i quali decisero per i lapsi e diversi colpevoli di altra natura una certa disciplina penitenziale. Ma secondo il cristianesimo neotestamentario, ogni peccato passato, presente e futuro è cancellato definitivamente con un sincero atto di fede nell'opera salvifica di Gesù. Per cui il peccato è, dal punto di vista giuridico, un'esperienza o colpa del passato, che non deve condizionare più il presente. Quando l'Apostolo Giovanni parla del peccato del credente, occorre comprendere ciò che vuol dire. 1 Giovanni 3:6. Chiunque dimora in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né l'ha conosciuto. 1 Giovanni 3:8. Chiunque persiste nel peccare è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. 1 Giovanni 5:18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Con queste affermazioni Giovanni mette in evidenza che credisca alla legge di Dio, ma un conto è la trasgressione, altro è un cammino perseverante. Così, la colpa di chi aveva rinnegato la fede era già perdonata dal sacrificio di Cristo. E a nulla servivano riti religiosi di riparazione. Fu Erma, autore apocalittico attivo nella Roma dell'età di Antonino Pio, il quale, con sensibilità pastorale, parlò della possibilità di un secondo pentimento per il credente battezzato, che fosse ricaduto in peccato. Il passo dal pentimento alla riparazione del peccato fu inevitabile, ed ecco che i meriti dei lapsi, dei santi e di Maria costituivano un immenso tesoro, un tesoro spirituale che ora era gestito esclusivamente dal Papa, che ne poteva disporre a beneficio delle anime dei defunti in purgatorio e quelle dei viventi. Fu così che nacquero le indulgenze. Era possibile far dire delle messe e delle preghiere per i morti, per sollevarli dalle pene che stanno in questo momento soffrendo, e per fare questo era necessario pagare del denaro. Un po' di tempo dopo l'avvio di questa pratica, Papa Giulio II decise di far demolire l'antica Basilica di San Pietro a Roma, con l'intento di farne costruire un'altra molto più bella e grandiosa, che avrebbe dovuto rappresentare degnamente la grandezza del papato. Ovviamente sarebbe costata moltissimo. Così la vendita delle indulgenze sarebbe servita a raccogliere il denaro necessario. Nel 1510 Giulio II promulgò una bolla, che tra l'altro diceva a tutti i cristiani che avranno contribuito devotamente ai fondi per costruire l'edificio otterranno la piena remissione di tutti i loro peccati. Inoltre, se il peccatore desiderava scegliersi un determinato confessore per amministrare la soluzione, poteva farlo, pagando una somma supplementare. Se poi il confessore avesse applicato un'altra penitenza salutare, anche in questo caso, sarebbe servita per la costruzione di San Pietro. Il Papa successivo, Leone X, non solo ripropose le indulgenze estendendole a molte parti d'Europa, ma a chi avrebbe pagato aggiunse 4 grazie supplementari: 1. Il perdono dei peccati, 2. Il diritto di ricevere per 2 volte il perdono plenario, una volta durante la vita e nell'ora della morte. La persona senza parenti avrebbe ricavato dei benefici spirituali dal patrimonio spirituale della Chiesa. 4. La remissione della pena dei peccati per le anime del purgatorio. Nel corso del tempo, queste pratiche furono ampliate e modificate, ma basti pensare che nel 1300 Bonifacio VII concesse un'indulgenza plenaria a tutti quelli che, a Roma, avrebbero visitato le basiliche di San Pietro e Paolo, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. In quell'anno circa 1 milione di fedeli visitarono Roma, facendo affluire in Vaticano moltissimo denaro. Questi giubilei erano stati indetti ogni 100 anni, ma nel 1350 i romani chiesero insistentemente a Clemente VI di proclamarne uno in quell'anno per guadagnare altro denaro. Dal 1500 in poi il giubileo fu indetto ogni 25 anni e praticato da moltissimi fedeli ansiosi di ottenere indulgenze. Fu anche contro questa scandalosa e vergognosa truffa che Martin Lutero, il 2 ottobre 1517, affisse contro la porta della chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi, dando in questo modo avvio alla riforma protestante. Così, dal semplice e apparentemente innocuo editto di Decio, la religione cattolica attinse decisioni e affermazioni contrarie alla scrittura, come per esempio: non si può avere Dio come padre se non si ha la Chiesa come madre. Nel XXI secolo tali affermazioni risultano per molti cristiani assurde, ma non lo erano 2000 anni fa. Che il vero Vangelo possa strappare tante anime dal laccio della falsa religione per avere il coraggio anche oggi di essere dei lapsi, cioè dei martiri. Settembre 2012, Ellero,